sostanzialmente sono in una situazione drammatica. Noi riceviamo veramente tantissime chiamate di lavoratori che sono praticamente allo stato di indigenza. Ne abbiamo moltissimi, perché anche le misure messe in campo dal governo non hanno coperto tutti questi lavoratori, che hanno una tipologia particolare di lavoro. Tra l'altro in questo settore è anche forte, diciamo, la presenza del lavoro nero. Quindi in queste condizioni sono in una situazione drammatica tutti, musicisti, danzatori e attori. Voi avete registrato anche qualche scorrettezza da parte delle produzioni teatrali quando sono arrivate le ordinanze e poi i decreti che hanno fermato gli spettacoli? Assolutamente sì, nel senso che in qualche modo questa crisi ha fatto emergere anche un sistema assolutamente malato e poco rispettoso dei diritti dei lavoratori. Cioè le imprese per prime hanno violato il contratto applicando, diciamo, una tutela che era specifica, che riguardava attori e danzatori nel caso in cui vengano sospese gli spettacoli. Hanno applicato sostanzialmente una parte dell'articolo più favorevole a loro. E poi, cosa ancora più grave, hanno licenziato le persone senza neanche dirglielo. Cioè nel senso che questo è un mondo che è talmente abituato ai mezzucci, all'assenza di regole, che pensano che sia normale licenziare un lavoratore e dirglielo dopo 10 giorni, che è una cosa inaudita. Tra l'altro io ho segnalato queste cose al Ministero, ma non mi risulta che il Ministero abbia fatto nulla nei confronti dell'azienda. Anzi, adesso si sta verificando un'altra distorsione. Siccome in particolare, diciamo, i teatri più importanti sanno già che gli arriverà una quota di risorse straordinarie, che sono quelle messe nel decreto DL18, che adesso è in fase di riconversione, stanno facendo dei contratti farlocchi alle persone, pagandogli praticamente 12 giorni alla minima, solo ai fini di avere la garanzia di avere ulteriori giornate di lavoro pagate da dimostrare al Ministero per avere i fondi. Io credo che veramente si stanno accanendo in un modo, non so neanche come definire questa cosa. Cioè questa cosa succede solo in questo ambiente, perché i lavoratori sono molto deboli e sono anche, conoscono poco i loro diritti, e questo permette all'azienda veramente di comportarsi in un modo corsaro, non so come definirlo altrimenti. Prima facevi riferimento alle misure messe in campo dal governo che reputate insufficienti, però possiamo ricordare quali sono e perché sono insufficienti? Il governo per la prima volta ha inserito delle misure specifiche per i lavoratori dello spettacolo, e questa è una cosa molto importante, perché la prima cosa da fare è dire che sono diversi dagli altri, e finalmente ci siamo arrivati. Il problema è che sono previsti degli ammortizzatori che però purtroppo mi escludono tutti gli intermittenti per le regole che si è dato l'INPS, sostanzialmente questi sono fuori da qualsiasi tutela. In più per gli altri, e il principio importante che era passato nella legge, non si distingueva lavoratori autonomi, prestazione occasionale, diciamo tutti quelli che non avevano un rapporto alla data del 17-3, che è quella di uscita del decreto, potevano chiedere i 600 euro, però per chiedere i 600 euro dovevano aver maturato 30 giornate nel 2019, avere un reddito inferiore ai 50.000, non essere pensionato e non percepire un reddito di cittadinanza. Il problema è che i 30 giorni ce li hanno in pochissimi, ma perché è lo stesso INPS che ad esempio dice che in un anno un attore non lavora più di 17 giorni, cioè non versa più di 17 giorni di contributi. E anche i 50.000 che appaiono un reddito alto, bisogna tener conto che all'interno, cioè siccome questi lavoratori girano molto, come il reddito da trasferta, che in parte è tassato e in parte no, se sei dipendente, se sei lavoratore autonomo è comunque tassato, ti alza il reddito, ma sono in realtà soldi che tu spendi per lavorare, no? Cioè, quindi anche il reddito di 50.000 è una misura buttata lì e non si capisce molto la ratio, così come non si capisce la ratio di aver escluso i pensionati. È lo stesso INPS che dice che la maggior parte dei pensionati ENPALS hanno pensioni molto basse, tra i 5 e i 700 euro, e qui non è un caso che questi anziani, tra virgolette, cioè persone, diciamo, che sono già andate in pensione e continuano a lavorare finché la salute glielo consente, proprio per andare a rimpinguare quel reddito da pensione che è troppo basso. Quindi questo sistema, che in qualche modo per la prima volta li vede, non li capisce. È questo che sta succedendo, non li capisce, perché un lavoratore dell'ENPALS fa anche attività, altra attività, e versa i contributi alla gestione separata. La maggior parte di quei lavoratori hanno i contributi, ma stanno più in gestione separata che sull'ENPALS, e questo è perché il sistema non è pienamente regolarizzato, perché noi ad esempio chiediamo che l'attività di insegnamento venga inserita all'interno dell'ENPALS, non alla gestione separata, anche per permettergli di ricostruire a fine carriera in condizioni più normali, diciamo, tutta la loro attività lavorativa per arrivare a un calcolo di pensione ragionevole, non come adesso che è molto complicato. Voi cosa chiedete al Ministero e al Governo? Oggi abbiamo anche l'incontro col Ministero. Noi chiediamo sicuramente un reddito di sopravvivenza per queste persone, perché ripeto, sono cadute moltissime in stato di indigenza, quindi noi abbiamo la necessità di avere un reddito, ma non per 2 mesi. Noi noi ragioniamo sul reddito che deve arrivare almeno fino ad ottobre, perché noi sappiamo che lo spettacolo sarà l'ultimo a partire. Quindi assolutamente misure eccezionali adesso che guardino a questi lavoratori che partiranno dopo gli altri, e poi da lì, cioè quando si tornerà alla normalità, è veramente necessario cominciare a parlare di tutele specifiche per questi lavoratori, guardando alla loro attività, che è un'attività che non è uguale a nessun altro comparto del mondo del lavoro, insomma.